24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:22 minuti, buongiorno cari ascoltatori, eccoci in diretta fino alle 9 con il nostro Carmelo Lauricella che conclude forse la settimana con noi e se ne va per altri lidi. Allora, parleremo di cosa? Beh, oggi è il voto della fiducia, avremo ospite alle 8:20 Rosy Bindi, presidente del Partito Democratico, per parlare dell'attualità politica e poi parleremo anche di questa protesta dei cosiddetti indignati nostrani. Metteremo a confronto un uomo navigato della politica, Giorgio Stracquadagno, spesso nostro ospite, con una ragazza, 23 anni, Martina Fabbri, conosciuta all'Italia perché nel modo peggiore, no, il suo volto l'avete visto ieri sui giornali, ha preso una manganellata, ha perso 4 denti nelle proteste contro Bankitalia a Bologna un paio di giorni fa. Due generazioni, due modi di vedere l'Italia in questo momento, immagino, diverso. Li metteremo a confronto. Questo alle 8:30. Ora da cosa iniziamo? Dalla lettura dei giornali in edicola. Venerdì 14 ottobre, solo uno sguardo a due o tre titoli di quotidiani, poi vedremo gli altri. Cadono le borse, banche sotto tiro, questo il Sole 24 Ore di oggi. Tra l'altro vi segnalo Sole 24 Ore che da oggi ripropone il mensile dopo 3 anni riprende e lo trovate da oggi in edicola con il Sole 24 Ore. Il Corriere della Sera, Berlusconi, la fiducia o si va alle urne? Repubblica, Berlusconi, la fiducia o si va al voto? Berlusconi, la fiducia o si vota? Questo la Stampa. Corriere, Repubblica e Stampa, come vedete i titoli sono tutti declinati sulla giornata politica odierna, vale a dire il voto di fiducia. Vedremo qualche altra apertura, ma voglio subito andare a qualche segnalazione prima della pubblicità. La prima è un bel reportage a firma Giuseppe Salvaggiulo sulla Stampa, pagina 18 e 19, e riguarda il Molise. In Molise due aeroporti elettorali, inutili, costosi e soprattutto irrealizzabili. E qualcuno dice, ma come? Ma c'è un particolare. Domenica in Molise si vota per le elezioni regionali e la giunta dà il via libera tra le polemiche. E allora scrive Giuseppe Salvaggiulo, gli slogan sono pindarici, provincia di Isernia, pronti a volare, oppure i caciocavalli a fianco delle tecnologie aerospaziali. In Molise la fantasia non manca, domenica si vota e in campagna elettorale il governatore PDellino Michele Iorio a caccia del terzo mandato estrae dal cilindro l'aeroporto del Molise. Sorgerà a cavallo tra Cantalupo nel Sannio e San Massimo, metropoli di 756 e 754 abitanti circa. Nella piana di Boiano, principale centro della zona, con 8.000 potenziali passeggeri, neonati inclusi, avete sentito bene, 8.000. Ma la stessa regione 10 anni fa aveva deciso di creare un nuovo scalo, un altro scalo a Sepino o Sepino, come si dice, abitanti del Molise, ditecelo, 2000 abitanti. Dunque ora la seconda regione più piccola d'Italia si ritrova non con uno, ma con due progetti di futuribili aeroporti a 20 chilometri di distanza l'uno dall'altro. Come direbbe Totò, abundandis abundandum. E vabbè, non se ne farà nulla, ma scrive Salvaggiulo, intanto nascono società ad hoc, presidenti, consigli di amministrazione, si opzionano terreni, si generano incarichi, consulenze, studi di fattibilità, tutto per centinaia di migliaia di euro. Insomma, due aeroporti elettorali in Molise si vota, non ce ne sarà nessuno probabilmente, ma le promesse a volte servono. La seconda notizia che vi voglio segnalare sta su tutti i giornali, riguarda il caso di Cesare Battisti, l'abbiamo sentito anche prima. La vicenda di Cesare Battisti, condannato per 4 omicidi in Italia e ormai al sicuro in Brasile, al sicuro davvero perché un PM ha riaperto il caso, via dal Brasile, Battisti non merita il visto. È un nuovo colpo di scena nel caso Battisti, l'ex leader dei proletari armati per il comunismo rischia l'espulsione dal Brasile, ma per un paese non come l'Italia, ma come il Messico o la Francia da cui proveniva, o verso un'altra nazione che accetti di riceverlo, perché il pubblico ministero federale brasiliano Elio Heringer ha chiesto la revoca del visto permanente dell'ex terrorista ottenuto a Brasilia dopo che una sentenza della Suprema Corte ne aveva ordinato la scarcerazione e bloccato l'estradizione verso l'Italia. Secondo questo procuratore, infatti, questo visto è stato ottenuto da una persona che aveva compiuto dei crimini passibili di estradizione in base alla legge brasiliana. Insomma, questo visto non va bene. Tutti i giornali, io l'ho letto l'articolo del Corriere della Sera, ma anche La Stampa, la Procura di Brasilia, via il visto a Battisti, è illegittimo il suo permesso, ma subito La Stampa fa sapere non verrebbe comunque restituito all'Italia. Questo no, semmai alla Francia o al Messico, paesi da cui proveniva. In ogni caso, si riapre a colpi di carte bollate per una questione di visto la vicenda dolorosa per l'Italia, soprattutto per le vittime per le quali Battista è stato condannato. Questo caso. 7:33 minuti, allora alla lettura del giornale ci concentriamo sulla pagina politica. Ovviamente oggi alle 12:30, minuto più minuto meno, c'è il voto di fiducia chiesto dal governo. Ieri cosa ha detto Berlusconi? Solo, dopo di me solo le urne, così titola il Sole 24 Ore, pagina 5. Chiedo la fiducia perché il paese è a rischio. Da Napolitano una vigilanza impeccabile. Il succo poi del discorso, insomma, l'avete, ieri l'abbiamo trasmesso in diretta, ci si è già proiettati al dopo, insomma, dopo il discorso, oggi il voto, uno snodo che tutti i giornali danno abbastanza per certo come una fiducia che avverrà. Ma tutti i giornali che cosa hanno sottolineato di questo discorso? Beh, certo, ha colpito molto, se il linguaggio del corpo ha un senso e ha un significato, i 12, così li hanno contati, sbadigli di Umberto Bossi, il ministro Bossi che era a fianco a Berlusconi e che ripetutamente sbadigliato durante i 20 minuti di intervento del Premier. Sbadigli e riforme, lo show di Bossi, così titola per esempio a pagina 3 Aldo Cazzullo nel racconto della giornata. I 12 sbadigli di Bossi, così titola Repubblica, pagina 3 con Curzio Maltese, anche Tremonti e Maroni voltano le spalle al Cavaliere. Secondo Curzio Maltese, se il linguaggio del corpo ha un significato, gli sbadigli di Bossi significano elezioni anticipate. Se la più appassionata e disperata delle autodifese del Premier ormai annoia anche il principale alleato, allora vuol dire che la corsa è finita. Ancora più duro è Massimo Gramellini nel suo commento sulla Stampa, che continua, inizia in prima pagina, poi continua a pagina 45. Smorfie che diventavano conati tra uno spalancamento di fauce e uno strabuzzare d'occhi. Imperdibile il passaggio in cui Berlusconi cita il federalismo e tenta di fare pat pat sulla testa di Bossi, neanche fosse un peluche. Invece la manca clamorosamente, allora procede a tentoni cercando almeno di cingergli le spalle mentre l'altro inghiotte il 12° sbadiglio e si sforza di assumere un contegno adeguato alle circostanze. Ma la noia, non potendo più uscirgli dalla bocca, sale negli occhi e gli provoca l'abbassamento delle palpebre. Così Gramellini, 12 sbadigli e addio rivoluzione sulla Stampa. E poi anche il giornale lo mette con una foto che campeggia ben in alto a pagina 5, Bossi sbadiglia, però la lettura è diversa del giornale, tanto non cadiamo. La giornata alla Camera, ecco qua il resoconto di Paolo Bracalini, un senatur stanco siede accanto al Premier, mentre Maroni gioca con foglietti e cellulare. E anche il resoconto di pagina 5, La Stampa addirittura mette la sequenza, la fotosequenza, sono per la verità solo 6 in questa fotosequenza, in realtà ne hanno contati 12 nel resoconto di Mattia Feltri. Il ministro per le riforme Umberto Bossi ha praticamente sbadigliato durante tutto il discorso del Premier, alla fine si contano appunto 12 sbadigli. E anche il Fatto Quotidiano a pagina 3, nell'aula vuota va in onda il cavalier sbadiglio, così lo definisce Luca Telese. Beh, insomma, questa degli sbadigli di Bossi davvero è un'immagine che ha colpito tutti i giornali. Ora ovviamente c'è che cosa? La conta dei numeri. Abbiamo detto, è abbastanza scontato che ci sia il sì alla fiducia, ma insomma i giornali vanno a vedere quelli che sono gli incerti. Partiamo dal Corriere della Sera, pagina 6, quota 316, i timori della maggioranza, malpancisti chiamati uno per uno. Eccoli qua, li chiamano i malpancisti, no? Quelli che nel Popolo della Libertà, a cominciare da Scajola, le sue truppe degli scaioliani, ma non solo, ci sono anche quelli del gruppo misto, per esempio Luciano Sardelli, che è stato capogruppo dei cosiddetti responsabili, cosiddetti nel senso che hanno cambiato il nome, non che non lo siano responsabili, adesso si chiamano Popolo e Territorio. Il re è nudo e qualcuno deve pur dirlo, non possiamo consegnare il paese al giustizialismo, all'antipolitica solo perché Bossi deve regolare una partita interna. Il leader della Lega vada a Ponte di Legno e la smetta di offendere il Meridione e Roma. Inizia così nell'articolo di Monica Guerzoni a pagina 6 Sardelli che dice non voto e quindi già uno, poi bisognerà vedere, da qui alle 12.30 possono cambiare le cose. Oppure a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, Giustina Mistrello Destro, non voto, sto soffrendo moltissimo ma ho deciso, non sono una che si sveglia la mattina e decide di buttare tutto all'aria, a questa decisione sono arrivata da tempo, ho passato la giornata con me stessa a ragionare, non voterò, non andrò a votare, lo dico con grande dolore, mi sento molto responsabile verso chi mi ha eletto e verso il mio paese. E poi dice Denis Verdini, che è colui che cerca di recuperare tutti gli incerti, dubbiosi, titubanti, sì, ha chiamato anche me, voleva offrirmi un caffè, ma io il caffè non lo voglio e non ne ho bisogno. Al Messaggero Santo Versace dice non voto, lui è uscito per la verità anche dal PDL. Non andrò a votare, sì certo hanno provato anche con me, ho parlato con Denis Verdini. Su Repubblica, Calogero Mannino, che già ieri al Quotidiano Nazionale l'aveva detto, oggi conferma, sente questo, tra l'altro con, ecco, inizia l'intervista con anche un, devo dire, commentare io, grande rispetto nei confronti del Parlamento, del ruolo di parlamentare, sente questo, questo vento in sottofondo, dice all'intervistatore Carmelo Lopapa, sì, sa dove mi trovo? No, mi dica onorevole Mannino, a Pantelleria, a curare il mio vino, e qui resto. Oh, così, onorevole Mannino ci fa sapere che eletto in Parlamento sta a Pantelleria, immagino, da un paio di giorni e dice e qui me ne sto a curare il mio vino. Non lo voto più, vedrete, altri mi seguiranno, così dice l'onorevole Mannino. Insomma, quindi la conta, cioè ci sono i voti, ma in realtà bisognerà poi vedere. Peraltro anche giornali, certo non lontani politicamente dal governo, come Libero, per esempio, guardate Libero come titola in prima pagina, Silvio è un precario, oggi si vota la fiducia, probabilmente stavolta il governo la sfangherà, ma il pericolo è tutt'altro che finito. Cioè l'idea di molti giornali, quasi tutti, è che anche dovesse passare questa fiducia, siamo davvero alle battute finali, nel senso che ogni giorno c'è il rischio di un incidente. 15 giorni da brivido, titola per esempio a pagina 5 Libero. Ecco quando Silvio può cadere. Oggi forse andrà liscia, ma c'è chi prepara agguati sul decreto sviluppo e la legge di stabilità. E tra l'altro Libero mette delle foto di Santo Versace, Calogero Mannino, l'onorevole Grassano dei appunto responsabili, Luciano Sardelli, cioè quelli che sono, ma anche Domenico Scilipoti. Cioè le persone sotto osservazione, quelli che abbiamo sentito anche da varie interviste, chissà in realtà come manifesteranno il proprio voto. Anche la Lega però, attraverso il suo sindaco di Verona, Flavio Tosi, torna a sparare. Tosi, sapete, dopo che anche qui a Radio 24 da noi ha detto qualcosa che gli ha fatto un po' rischiare qualche provvedimento abbastanza duro, qualcuno diceva addirittura l'espulsione da parte della Lega, non parla più di vicende interne del partito. Infatti a Rodolfo Sala, intervistato nell'intervista Repubblica pagina 9, dice: per carità, è un passaggio delicato sulle questioni interne al movimento e non ho detto e non dirò mai nulla, però vedete il titolo di questa intervista, Tosi, è ora che il Premier si faccia da parte, ci ha tradito sull'agenda di Pontida, il nostro segretario federale, cioè Bossi, gli ha dato un ultimatum preciso, 3 mesi per fare le cose in cui il paese ha bisogno, non è successo nulla, siamo agli sgoccioli e si va avanti a colpi di fiducia. Tosi che dice va bene una nuova premiership, magari Alfano o Maroni, per il dialogo, allargare la compagine di governo, c'è anche Casini. Insomma, un Tosi che dice Berlusconi faccia un passo indietro. Chi, cioè, se alla maggioranza non hanno le loro gatte da pelare, come si suol dire, nella minoranza, nell'opposizione, c'è un caso legato ai radicali, un caso che sta per implodere, lo chiederemo anche a Rosy Bindi alle 8:20, perché i radicali sono gli unici dell'opposizione, i sei radicali, credo siano sei, eletti all'interno del Partito Democratico, che ieri erano presenti delle opposizioni al discorso del Premier. Le opposizioni, sapete, non hanno partecipato e non hanno ascoltato il Premier in aula. Invece i radicali sì. E qui c'è uno scontro incredibile. Pare che Bersani abbia detto vadano per la loro strada. E qualcuno dei radicali gli abbia risposto tu vai per la tua, che non sai qual è. Insomma, siamo veramente agli stracci che volano. Rita Bernardini, intervistata per i radicali dal Corriere della Sera, dice non c'è dialogo politico tra radicali e PD. Ci espelleranno? Non so se avranno il coraggio di fare questa scelta. Perché fanno scelte di solito? È molto puntuta, no, questa dei radicali. Sentite Pannella, invece. Recita su Libero in un'intervista a pagina 9 il De Profundis con il PD. Allora, chiede Marco Gorra, il PD vi vuole cacciare, eh? Non hai capito un cazzo. Questa è la prima risposta stile pannelliana. Che dice però del PD? Sentite cosa dice del PD Pannella. Non ci hanno portato in nessun posto, nemmeno in malora, come sono andati e stanno andando. Ma allora perché avete fatto questa alleanza? Siamo stati costretti, accettammo il ricatto di questi poveri strateghi dei ricatti, tardo comunisti con qualche tardo demo anticristiano aggregato. Demo anticristiano aggregato. Alla fine loro hanno dovuto accettare che noi fossimo presenti in questa legislatura. Ora vedremo se continuare ancora il miracolo della centenaria storia liberale, laica e democratica saremo noi o loro. È proprio una rottura. Tra l'altro io voglio andare su quello che è il Fatto Quotidiano in prima pagina, che propone una notizia della quale si era molto vociferato. Addirittura l'ex direttore della Padania Moncalvo era andato a dirlo in TV da Lucia Annunziata. Ora il Fatto Quotidiano ci apre su questa vicenda. E il titolo è questo, da cui ripartiremo dopo il traffico. Berlusconi pagò la Lega. Ecco la prova. La vigilia delle politiche del 2001, la Banca di Roma diede un credito di 20 miliardi di lire a Forza Italia, che ne girò due al Carroccio. Su quei soldi il patto di ferro che dura ancora. Ecco qui, secondo il Fatto, riproposto il documento che testimonia che c'è un patto, perché Berlusconi pagò dei soldi alla Lega. A pagina 2 il Fatto Quotidiano titola così: il Caimano e il Fido Bossi. Ma il Fido è un gioco di parole, perché si riferisce a un fido bancario vero e proprio, che viene tra l'altro riprodotto in fotografia. Secondo il Fatto Quotidiano, le scrivono Giorgio Meletti e Paola Zanca, eccola qui la prova di cui aveva parlato l'ex direttore della Padania Gigi Moncalvo in TV da Lucia Annunziata, dicendo guardate che c'è un accordo vero e proprio per cui, per dirla brutalmente così, Berlusconi si è comprato il marchio della Lega pagando dei soldi. Per questo c'è questa alleanza che non si può rompere, questo patto. Ebbene, per il Fatto è così, si propone questo fido. 26 aprile 2001, 17 giorni prima delle elezioni, la Banca di Roma concluse l'iter per concedere un fido di 20,4 miliardi di lire a Forza Italia. L'operazione faceva capo alla filiale 70 di Via del Corso a Roma. Linea di credito di lire 20 miliardi, di cui 2 miliardi distaccati in favore della Lega Nord con MC, che significa, traducendo dal banchese la sigla MC, sta per mandato di credito. Significa che il tesoriere del partito di Bossi o un suo delegato è autorizzato da Forza Italia a farsi versare dalla Banca di Roma fino a 2 miliardi di lire dei 20,4 del credito complessivo. La formula implica che la Lega Nord ha il diritto di incassare i soldi, ma non ne resta debitrice verso la banca, che continua ad avere per tutta la cifra concessa un solo debitore, il partito Forza Italia. Ecco, si chiede il Fatto, perché Forza Italia chiese un fido da 20 miliardi e ne diede 2, ne fece girare 2 alla Lega, che rimanendo però debitrice dell'intero fido Forza Italia, è questa la prova del patto tra Forza Italia e Lega? Questa è la notizia che Il Fatto mette in prima pagina. Intanto ieri c'è stato un consiglio dei ministri teso, questo fa sapere i giornali, sul tema dei tagli che avevamo preannunciato qui ieri, tagli lineari proposti da Tremonti. Perché? Perché i ministeri non hanno rispettato la legge per la quale dovevano entro una certa data proporre dei tagli a se stessi. Allora Tremonti ha agito come prevede la legge, con tagli lineari. E però questo ovviamente in questo clima politico non fa certo sorridere. Il ministro Prestigiacomo praticamente ha detto: hanno cancellato il mio ministero. Di fatto si cancella il ministero dell'ambiente, non voto la legge di stabilità. E poi Carmine Fotina ne parla a pagina 17 del Sole 24 Ore sotto il titolo "Banda larga, lite Romani Tremonti". Si apre lo scontro tra Romani e Tremonti sui fondi per le telecomunicazioni destinate a evaporare con la legge di stabilità. Brucia il blitz con cui il Ministero dell'Economia ha dirottato al Tesoro l'intero extragettito da 1,6 miliardi dell'asta per le frequenze, e per cui Romani è intervenuto in maniera dura a dire: un grave danno per il settore e per l'Italia. Secondo la stampa, Romani è intervenuto molto dura a dire: questo è uno scippo, il tuo è uno scippo, avrebbe detto al ministro Tremonti. Vabbè, questo è il clima politico. Io per la cronaca vi segnalo alcuni spunti in chiusura. Il primo è questo, ne parlano la stampa e il giornale con una pagina: sparò al ladro in fuga, omicidio volontario. La vicenda riguarda Bergamo, un imprenditore, Antonio Monella, che nel 2006, per difendere la sua Mercedes nuovissima fuori strada, aveva sparato a un ladro che però era in fuga, uccidendolo. Era Elvis Oksha, 19 anni, albanese con precedenti. Secondo il giudice non fu eccesso colposo di legittima difesa, come sosteneva l'accusa, neanche per addirittura legittima difesa, perché il bandito era in fuga e dunque era omicidio, è stato condannato per omicidio volontario. 8 anni di carcere, condannato a questo. Ho temuto per i miei figli, mi sono ritrovato sul balcone con l'arma, ha detto, ma il giudice non gli ha creduto. Anche per il giornale, uccise il ladro che entrò in casa, colpevole, condannato a 8 anni. Infine voglio farvi sorridere, perché a Roma che cosa è successo? Il Messaggero lo mette in prima pagina, la stazione Tiburtina. Hanno messo le scritte con cartelli: metropolitana, underground, tutto bene. Solo che underground nei cartelli ufficiali non è scritto underground o underground, meglio, come in inglese, ma under, con la A iniziale, underground. Sì, con le foto in prima pagina del Messaggero, eccolo qua, underground, proprio così. C'era scritto così, con la A, sui cartelli nuovi fiammanti alla stazione Tiburtina. Welcome to Rome, cari turisti, underground, scritto con la A iniziale. Le ferrovie si scusano, è vero, abbiamo dato la società a fare i cartelli a una società esterna in appalto, c'è stato questo svarione, ed ora che facciamo? Gli hanno messo la pecetta, qualcuno ha corretto la A in U, e allora adesso c'è un più inglese, un più internazionale, underground, scritto come si doveva scrivere, underground e non underground, alla stazione Tiburtina. 24 mattino. Allora, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:22 minuti dell'attualità politica, il giorno del voto di fiducia. Ne vogliamo discutere con il presidente del Partito Democratico e anche vicepresidente della Camera, Rosi Bindi. Onorevole, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Senta, la fiducia oppure le urne? Lei condivide questa analisi politica che ha fatto ieri Berlusconi? Ma indubbiamente questa è la, diciamo, il desiderio di Berlusconi, che ancora una volta dimostra con questa alternativa di non volere troppo bene al nostro paese. Noi abbiamo sempre detto e ribadiamo anche in questa circostanza che auspichiamo che il governo cada, auspichiamo che ci sia un sussulto di dignità da parte degli esponenti della maggioranza, ma riteniamo anche che ci potrebbe essere lo spazio per costruire un governo di responsabilità nazionale sostenuto da tutte le forze politiche. La scelta guidato da una persona scelta naturalmente dal Presidente della Repubblica. Abbiamo sempre detto questo perché la situazione economica è molto drammatica, perché sì, vorremmo una nuova legge elettorale, come del resto i cittadini con la firma al referendum hanno dimostrato insieme a noi, e abbiamo lavorato per questo almeno da più di un anno, prima del 14 dicembre dello scorso anno. Ma come l'ha chiamato, sussulto di dignità, secondo lei dovrebbero fare questo la maggioranza? Dovrebbero, ecco. Ora io dubito però che dalle parole di Berlusconi di ieri, che una volta anche caduto il governo ci sarebbe questa disponibilità, e qualcuno potrebbe convincerlo a fare qualche cosa di buono finalmente per il suo paese. E quindi è chiaro che se cade il governo lui punta a questo, c'è l'alternativa delle urne, noi siamo pronti anche a quella, ecco, noi siamo pronti ad assumerci la responsabilità di un governo di responsabilità nazionale, e siamo pronti ad andare alle elezioni. Senta, li ha visti i 12 sbadigli di Bossi, come li giudica? Li ho visti, so che tutti abbiamo notato questo aspetto, credo che io ho anche rispetto di una persona che penso abbia anche qualche difficoltà nella sua salute, quindi chiaramente non credo che le possiamo automaticamente attribuire, cioè ritenerli una sorta di commento al discorso di Berlusconi. Però credo che il miglior commento al discorso di Berlusconi dei 12 sbadigli di Bossi non ce ne sia, perché quel discorso è stato la ripetizione di tutti gli altri discorsi con i quali ha chiesto la fiducia in questi ultimi mesi, e quindi sono quello è il miglior commento, secondo me. Senta, qualcuno fa notare che anche voi avete una grana interna, cioè quella dei radicali. Le leggo quello che oggi Pannella dice su Libero, dice del PD: non ci hanno portato da nessuna parte, nemmeno in malora, dove stanno andando loro, e poi fummo obbligati all'accordo con questi tardo comunisti e tardo demo anticristiani. Pannella è un po' così, insomma, anche è compatibile. Allora, guardi, per il rispetto del mio partito mi conceda di non commentare queste parole e di ribadire quello che ho detto ieri e che ho detto anche la volta precedente. Dentro i gruppi parlamentari ci sono delle regole, chi non li rispetta deve trarre le conseguenze, le traggono loro, le traiamo noi. Infatti, il resto si sono già autosospesi, quindi sono di fatto fuori, diciamo. Sono di fatto fuori, come ha detto ieri il segretario. Ma è stato un errore portarle in Parlamento, allora? Io fui contrario all'accordo già quando Veltroni, perché a Veltroni gli dissi: se dobbiamo andare da soli non andiamo male accompagnati. Quella è una brutta compagnia, brutta compagnia. Quindi questo, ma perché penso che ci siano, io che sto dentro il PD, ho contribuito a fondare il Partito Democratico perché credo oggi al valore di una forza pluralista. Credo però che ci sono, per stare dentro un partito e confrontarci anche nella differenza delle idee, che l'ho sempre ritenuto una ricchezza, si debba però dentro un gruppo parlamentare rispettare le regole minime per stare insieme, soprattutto in momenti, diciamo, drammatici come quello di ieri. Senta, onorevole Bindi, lei, visto che va per la maggiore di questi tempi, si sente indignata, e se sì, per cosa? Ma sì, io mi sento indignata per molte cose, mi sento indignata naturalmente per la situazione del nostro paese, per questa impotenza alla quale Berlusconi costringe tutti, dal capo dello Stato al Parlamento, alle opposizioni. Come dice giustamente Persani, non ci abbiamo neanche il Gran Consiglio del fascismo. Noi siamo indignati perché siamo inchiodati agli interessi personali di una persona che tiene inchiodato tutto il paese. Poi condivido alcune delle, diciamo, il significato dell'indignazione che è partita ormai in tutto il mondo, che esprime un dissenso profondo nei confronti di un modello di sviluppo e di una concezione dell'economia che ha portato di fatto e all'origine di questa crisi. Ora, ci stanno chiedendo di riflettere su un punto che io ritengo molto importante in questo momento. Le origini, ciò che è all'origine della crisi non può essere la soluzione della crisi. Usciremo da questa crisi se sapremo trovare nuove regole per il mercato, se riporremo al centro l'economia reale e il lavoro, se riusciremo a fermare questa furia delle destre che pensa di risolvere la crisi massacrando lo Stato sociale e le sicurezze dei cittadini. Poi naturalmente non condivido l'uso della violenza. Beh, quello ci mancherebbe, insomma. E speriamo che non succeda nulla domani. Senta, esatto. Le devo chiedere anche di Matteo Renzi, ma è una risorsa o una grana per il PD? Io non l'ho ancora capito, se per voi, perché lui dice vogliamo svecchiare, via le Bindi, via i D'Alema, via i Bersani. Ma guardi, io figuriamoci, una persona che prima di 30 anni diventa sindaco di Firenze, anche se con percorsi abbastanza tortuosi, ma te è un altro del quale piegarla alle regole è un po' complicato, che sia una delle persone giovani con maggiori talenti, non ci sono dubbi, insieme a lui ce ne sono molti altri, per fortuna. Però? No, a lui come a tutti gli altri ricordo che insomma che mordono tanto il freno. Io sono diventata parlamentare a 38 anni, lui è sindaco, Civati è consigliere regionale, la Serracchiani è europarlamentare, cioè non Zingaretti è presidente di una provincia, cioè voglio dire è stata così per tutti la vita politica, come è così per tutti in questo paese. Infatti lui dice, lui dice quello è il problema, è diventata troppo parlamentare per lui. Ho capito, va bene tutto, ricordo a Renzi che il rinnovamento si fa con una scelta serena di un percorso politico insieme a tutti, non si fa facendo la caricatura del proprio partito per affermarsi come un valore quando non c'è bisogno di fare la caricatura, si fa stando in un gioco di squadra e si fa con tante regole, ma insomma qui non, certo io non vedo tanti Moro e tanti Berlinguer, tante Iotti e tante Anselmi in giro per Parlamento, però non ci sarebbero state queste persone se ci fossero stati gli automatismi dei mandati, non avremmo neanche questo Presidente della Repubblica. Sì, quindi stiamo attenti a tutto questo e se è chiaro che il rinnovamento che è già in atto dentro il partito, ho citato alcuni casi, sì, insomma, però dice non esageriamo, se andiamo al governo saranno i futuri ministri, cioè c'è una strada aperta per tutti, se poi tutto questo si trasforma in questo che non c'è mai possibile che in tutti questi mesi Bersani non ne abbia azzeccata una. Io francamente questo atteggiamento penso che sia un po' strumentale. Senta, nel ringraziarla, ma lei la saluto ovviamente, un caffè con Berlusconi prima o poi lo prenderà, l'ha mai preso un caffè con Berlusconi? No, non credo, non ne vedo né l'utilità né il piacere, quindi non capisco perché dovrei farlo. Vabbè, insomma, vi incrocerete qualche volta in Parlamento. Ma sì, ma io sono, io saluto le persone, dopodiché se prendere il caffè è un piacere o può essere utile, non vedo nessuna delle due cose. Ah, perfetto. Perché il piacere, insomma, francamente non ce l'ha. Sarei ipocrita se dicessi che potrebbe essere un piacere. E neanche dal utile. Dal punto di vista dell'utilità, zero. Io spero che ormai non sia più un interlocutore. Vabbè. La ringrazio, buona giornata. Grazie per essere grazie stata con lei, noi. L'onorevole Rosy Bindi, presidente del Partito Democratico. Allora, sono le 8:38 minuti in questa vigilia, in questo momento particolare per l'Italia in cui si vota la fiducia, oggi in cui domani 15 ottobre a Roma, ma in varie città d'Italia e del mondo, questo Movimento Uniti per la Crisi, cosiddetti indignados alla spagnola, gli indignati italiani manifestano. Oggi noi ne vogliamo parlare in un modo un po' particolare, vogliamo mettere a confronto due persone che vedono l'Italia in modo diverso, da prospettive diverse. L'emblema, lo dico con affetto, della casta, Giorgio Stracquadagno, onorevole Stracquadagno, buongiorno del Popolo della Libertà, le sa che non sono demagogico io, benvenuto comunque a Radio 24, ben ritrovato. buongiorno a lei, ma spero che sia una responsabilità oggettiva. Sì, certo. Allora... Non mi sento l'emblema. No, ma infatti, vogliamo un rappresentante parlamentare che ci racconta quello che succederà dall'interno del palazzo, diciamo, del Parlamento, e vogliamo metterla a confronto con una ragazza di 23 anni, Martina Fabbri, che saluto. Buongiorno e benvenuta, Martina. Salve, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Tra l'altro la sentirete parlare, lo devo dire subito, un pochino con difficoltà. Martina Fabbri è diventata, suo malgrado, famosa per qualche foto che è finita sui giornali, col volto sanguinante, anche con qualche dente perso, credo. Martina, è così? Non qualche, veramente, quattro. Quattro denti persi. Sì. Durante le manifestazioni un paio di giorni fa a Bologna. Esatto. Lei fa parte di quelli che si dicono indignati. Ci spieghi, sì. Intanto lei cosa fa nella vita? Ci spieghi un po' di lei, non la conosciamo. Allora, io sono una studentessa dell'Università di Bologna, della laurea specialistica. Mi sono trasferita a Bologna da un anno, prima studiavo a Roma. E faccio parte appunto di questo collettivo universitario che si chiama SADIR, cioè Sapere, Diritti, Reddito, che è nato l'anno scorso e che comunque da quando è nato ha sempre partecipato ai momenti, alle manifestazioni, ma non solo, ha cercato anche di costruire, insomma, dibattiti e discussioni all'interno dell'università con il corpo studentesco. Mm. Perché era in piazza? Lei si sente indignata per che cosa e contro chi? Allora, appunto, la manifestazione di due giorni fa era, come a Bologna, come in altre città d'Italia, era una giornata, diciamo, simbolica per manifestare davanti alla Banca d'Italia, come riprendendo un po' anche lo spirito e le modalità, no, americane, a Wall Street, eccetera, ci siamo sentiti in dovere, insomma, di andare davanti alla Banca d'Italia e di rimandare al mittente quella lettera che Draghi aveva mandato a Berlusconi, insomma, sulle soluzioni attraverso le quali salvare l'Italia dalla crisi. Sì, la lettera della BCE, della BCE, esatto. di Trichet Draghi al governo italiano. Esatto. E, vabbè, lì non voglio entrare nella cronaca, insomma, è successo che purtroppo è degenerata la situazione e lei ne ha fatto le spese, insomma. Sì, anche insomma, non è che è degenerata la situazione, c'è stata una volontà precisa perché... Noi comunque non eravamo armati, ecco, quindi c'è stata la volontà di fare male. Mm, la volontà di fare male. Ma lei si sente indignata per l'azione era contro la Banca d'Italia, ma lei personalmente per cosa prova indignazione in questo momento? Per la condizione dei giovani, di tanti giovani come me, non solo, per il tentativo, insomma, di far pagare questa crisi che noi non abbiamo creato ai più deboli. Noi nasciamo già con un debito sulle nostre teste che non abbiamo contribuito a creare e non abbiamo delle condizioni di vita veramente pessime rispetto alle possibilità che avevano i nostri genitori magari 100 anni fa. Onorevole Straquadagna, sentito, insomma, Martina, ce l'ha, siamo giovani, nasciamo con un debito che avete fatto voi, nel senso di voi classe politica, traduco io, da negli ultimi 40 anni. Lei capisce un po' le motivazioni della protesta di Martina, indignata? Sono indignato anch'io per il debito che la classe politica italiana ha fatto negli ultimi 30 anni. Io faccio presente che sono in Parlamento negli ultimi 5 e ho solo votato leggi che contrastavano l'accumulo del debito. E quindi da questo punto di vista non solo comprendo, ma condivido. Se posso, voglio dire, mi unisco alla protesta che ha interpretato la studentessa. Dopodiché io non mi sarei messo a fare scontri con la polizia, ma alla sua età mi è capitato anche a me. Infatti, perché lei è tra l'altro un'estrazione radicale, ha fatto manifestazione, è un uomo che conosce, insomma, le manifestazioni. All'età di Martina forse ero un rivoluzionario anarchico. Ah, ecco. Senta, ma questi indignati li capisce questo movimento degli indignati? Avete capito voi della politica che cosa chiedono? Oppure come titolo oggi la Padania è sono dei no global, punto a capo? A volte i toni e i tratti sembrano essere quelli di no global, nel senso che quando ci dicono che la soluzione è non pagare il debito, io vengo preso dal terrore. Per la semplice ragione che in quel debito ci stanno le pensioni dei loro padri, e quindi non pagarlo vuole dire condannare anche le generazioni precedenti a una prospettiva di vita molto più dura. I debiti vanno sempre onorati, e quello che bisogna fare è smettere di contrarne e rendersi conto che ogni nazione deve vivere nella delle sue possibilità. Noi non possiamo spendere più di quanto produciamo, e il nostro problema è aumentare la produzione di ricchezza, non aumentare la capacità di indebitarci. Cosa che è stata fatta purtroppo per molti anni per garantire quello che si è chiamato un welfare state, uno stato del benessere, quello per cui anche se non si lavorava si godeva di diritti sociali in modo gratuito. È un modello che è fallito, come è fallito il modello comunista a est, è fallito anche il modello del welfare state nella ricca Europa, e oggi la ricca Europa rischia di diventare povera. Allora, le 8:47 minuti. Intanto vorrei chiedere, Martina, so che non andrà a Roma, nel senso che ci voleva andare, ma ha cambiato idea dopo quello che è successo a Bologna? No, guarda, io non è che ho cambiato idea perché ho paura, diciamo, perché non ci credo più, ho cambiato idea più che altro perché, cioè, ho cambiato idea, sto valutando, perché le mie condizioni fisiche comunque non sono ottimali, anche perché appunto ho perso 4 denti, ho il volto tumefatto e... sono sotto antibiotici, antidolorifici e sto facendo una dieta di liquidi, quindi probabilmente non avrei neanche le forze. Certo, per andare. Senta, ha sentito, l'onorevole Staccadani dice non pagare quel debito, vuol dire crocifiggere anche le generazioni che lei stessa rappresenta, cioè quelle generazioni che si dice non avranno più la pensione, ma se non paghiamo quei debiti, certo, poi ci sono le riforme da fare, però intanto che non si pagano. Guardi, io ho sentito un po' tutto il discorso e volevo rispondere non solo a questo, ma anche ad altre obiezioni e altre opinioni dell'onorevole. Innanzitutto mi fa un po' sorridere che dica i temi sono uguali a quelli dei no global, perché forse, cioè, c'è anche un elemento di verità, ma perché forse gli stessi no global dal 99 avevano capito qual era il problema rispetto alla finanza mondiale, quindi siamo d'accordo. Dopodiché mi fa anche sorridere che si veda soltanto la parte dell'indignazione contro le banche quando non è così, perché come era per il movimento No Global, quello che si cerca di fare è costruire un'alternativa, quindi secondo noi, no? Secondo il movimento di cui faccio parte, il problema non è soltanto le banche, la finanza, il problema è anche quello di l'alternativa. Costruire un'alternativa. Ce la dica, quali sono le proposte sue? Innanzitutto il problema non è la produzione di ricchezza, secondo me, a mio modesto parere, ma al massimo la redistribuzione di una ricchezza che già c'è, perché appunto lo sappiamo, e anche quando noi andiamo a dire siamo il 99% e l'altro l'1% è quello che detiene la ricchezza. Dopodiché anche sul debito, sul non pagare il debito, ovviamente la nostra proposta non è quella di mandare il paese allo sbaraglio, ma ci sono degli articoli, degli economisti anche di un certo livello che la pensano come noi e che parlano di un default pilotato, cioè di cercare comunque di salvare i piccoli risparmiatori che, per quanto la percentuale ormai sia molto bassa, che detengono, no, dei titoli di Stato, mentre invece insomma schierarsi contro quei grandi. Ma ad esempio la redistribuzione della ricchezza come si può ottenere? Mi faccio una proposta concreta. Innanzitutto, secondo noi, non è vero che è fallito il sistema di welfare, anzi sarebbe da implementare, cioè, visto che appunto ci sono giovani come me che passano da lavoro precario a lavoro precario senza nessuna garanzia, oppure categorie come quelle, non lo so, dei lavoratori dello spettacolo, dei lavoratori della conoscenza che non hanno nessuna garanzia, no? Per cui secondo noi una di queste alternative è quella di appunto di un reddito di esistenza garantito, per cui ma come? Cioè, onorevole Straquadano, l'idea di un reddito tassiamo, di esistenza? Tassiamo la rendita, quindi non so, una tassiamo. Oh, queste sono proposte come tassare le rendite finanziarie, non so, magari una patrimoniale anche sui grandi redditi, e redistribuiamo questa ricchezza, onorevole Straquadano. Vorrei correggere, ma la patrimoniale non si può applicare sui redditi. Non ho capito, là? La patrimoniale? No, sui patrimoni, certo. No, certo, sui patrimoni. Come dice la parola. Quindi tassiamo e facciamo una bella patrimoniale. E poi redistribuiamo un po' di questa ricchezza, dando sicurezza ai giovani anche. mi perdoni, vogliamo distribuire povertà. E quello che abbiamo fatto in tutti questi anni, abbiamo le tasse più alte d'Europa, abbiamo tasse altissime nel mondo occidentale e abbiamo cercato di ridistribuire tasse e fatto debiti per distribuire, per dare che cosa? Garantire diritti. Il risultato è che produciamo meno ricchezza e abbiamo meno lavoro. Però mi scusi onorevole, che ci sia un problema di redistribuzione della ricchezza, su questo siamo un po' d'accordo, onorevole Straguadagno, cioè che ci sia un Mi perdoni, il problema principale è chi percepisce ricchezza senza produrla e chi consuma ricchezza senza produrla a fianco di che cosa? Di chi produce ricchezza senza contribuire alla come si dice, alla nazione attraverso il fisco. Noi dobbiamo ridurre l'evasione fiscale con un meccanismo virtuoso, non con un meccanismo poliziesco che non ha mai funzionato. Cioè dobbiamo rendere conveniente pagare le tasse. E va bene, ma se noi recuperiamo dei soldi dall'evasione fiscale, questi soldi poi vengono redistribuiti per garantire ai giovani più lavoro, cioè alle future generazioni. Ma noi dobbiamo garantire ai giovani più lavoro, dobbiamo aumentare la capacità del sistema di produrre posti di lavoro, non inventarceli. Certo. Non per Stato. È uno scherzo. No, no, ma assolutamente, non sto dicendo che devono essere garantito allora, dallo Stato. Lei non può fare slogan del tipo garantire. Per garantire le condizioni per cercare il lavoro. Le persone che lo Stato potesse garantire, indipendentemente dalla produzione effettiva attraverso il lavoro, potesse garantire il reddito. Però onorevole, abbiamo fatto una montagna di debiti. Onorevole, mi faccia dire, garantire non vuol dire che lo Stato ti dà un sussidio a vita, garantire le condizioni per le quali un giovane non debba passare da un posto di lavoro precario all'altro. Allora dica creare. Va bene, creare, ho sbagliato verbo. Vuole una condizione perché il giovane non debba passare da un posto di lavoro precario all'altro? Sì. I suoi genitori non abbiano la garanzia assoluta che il loro posto di lavoro è inossidabile. Ma questo è il problema duale, voglio dire, delle generazioni. Certo, noi abbiamo scaricato sui giovani quella flessibilità necessaria perché ci siamo rifiutati di distribuirla su tutti. Martina, io... sui giovani e sui lavoratori autonomi. Martina, su questo, Martina, ho 30 secondi. Voi, appunto, le chiedo due cose flash per chiudere. Avete fiducia ancora nella politica? So che poi si generalizza tutta la politica, un po' di quale politica? E secondo, perché non ve la prendete appunto con le generazioni dei vostri padri, dei vostri nonni? Guardi, rispondo prima alla seconda domanda. Io non me la prendo con la generazione dei miei genitori o con quella dei miei nonni, perché in realtà vedo che anche loro appunto fanno fatica. I miei genitori sono dei lavoratori, sono dei liberi professionisti e mi rendo conto che in questo momento non riescono a pagarmi l'università, quindi direi che c'è un problema grosso. Questo è un caso singolo, diciamo, ma intendevo la generazione. No, non è un caso singolo, perché l'impoverimento della classe media non è un caso mio, cioè di Martina Fabbri, è un caso generale. E della politica mi dia un flash, della politica che pensa? Della politica io non credo nella politica che si fa nel palazzo, di sicuro credo nella politica in un altro tipo di modo, altrimenti non mi sarei fatto spaccare quattro denti. La politica, diciamo, del movimento, insomma. Io vi ringrazio, gli ascoltatori oggi non c'è stato spazio, mi scuso, ma insomma andate su 24 Mattino, la nostra pagina Facebook. Ringrazio Giorgio Straguadagno, l'onorevole Straguadagno del Popolo della Libertà, ringrazio Martina Fabbri, 23 anni, studentessa che è rimasta ferita, appunto il volto lo avete conosciuto sui giornali, purtroppo in questa forma sanguinante, appunto ci ha raccontato quattro denti persi in questa manifestazione un paio di giorni fa a Bologna. Con Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Viola Bottoni in redazione. Ciao a tutti, ci sentiamo lunedì alle 7:20.